Julien Offroy de Lametrie, filosofo materialista del Settecento, dobbiamo alcune tesi strabilianti e preziose. Per esempio quella relativa ai polipi. Dopo essere stati tagliati, diceva, nello spazio di 8 giorni si riproducono in altrettanti animali quanti sono le parti tagliate. La soluzione ideale, dico io, per la fame nel mondo. O per esempio la tesi relativa alla capacità di erezione nei bambini, capacità che sarebbe presente solo alla condizione che il membro, ahimè, infantile in questione sia particolarmente irritato. Ma. O per esempio la tesi sacrosanta secondo la quale sarebbe più opportuno che le malate di bulimia, una specie di smania incontrollata per il cibo, venissero consegnate a dei medici piuttosto che arse o sepolte vive, come tradizione terapeutica invece esigeva. Il tutto lo scrisse nel suo saggio più famoso, L'uomo macchina, che dal 1748 in poi, anno della sua pubblicazione, e per il titolo e per il contenuto gli valse la persecuzione delle autorità religiose. Fra cose dignitosissime e cose strampalatissime, in questo saggio di Lametrie possiamo trovare un'asserzione come la seguente. Allora, qualunque morale è infeconda per chi non ha in dote la sobrietà. Questa è la fonte di tutte le virtù, la sobrietà, come invece l'intemperanza è quella di tutti i vizi. Parole sante, espressione di una consapevolezza severa e rigorosa. Peccato che Lametrie, proprio lui, 3 anni dopo aver scritto questo memorabile e sanissimo principio che l'oliva dovrebbe mettersi sulla testata del letto, sia purtroppo morto di indigestione. A Genova, in quest'anno di commemorazioni di dubbio gusto e di chiaro inganno, è stata allestita una presupponente mostra di artefatti umani che è stata battezzata così un po' familiarmente e poco originalmente, è stata battezzata, se non vado errato, Expo. Orbene, allora, quando si trattò di far approvare i cospicui stanziamenti del Consiglio Comunale, il sindaco di questa città assicurò che la spesa sarebbe stata fatta per i 3.500.000 visitatori previsti. A Expo, chiuso e in via di smantellamento, lo stesso sindaco si dovette presentare allo stesso Consiglio Comunale con il capo cosparso di cenere, dichiarando altresì che, ingiuria del tempo e soprattutto del maltempo, i visitatori erano stati appena 1.700.000, diciamo qualcosina meno del 50%. Ma la storia non finì lì. Qualche settimana fa un solerte impiegato comunale prova e riprova a rifare i conti e scopre che il sindaco, la carne sarà debole ma mai quanto lo spirito, il sindaco ha sbagliato i conti una seconda volta. I visitatori dell'Expo, per l'esattezza, erano stati 817.045. Qualcosina meno del 25%. Della cenere sul capo questa volta il Consiglio Comunale non si accontentò e il sindaco di Genova fu costretto alle dimissioni. I due casi di differenza fra dichiarazioni e fatti relativi al mendace Lametrie e dal mendace sindaco di Genova mostrano che fra la vita e ciò che si racconta di essa, soprattutto fra la vita e le regole cui si vorrebbe assoggettarla, c'è più o meno la stessa differenza. Sia che provenga dal pulpito di un moralista in conflitto con la società del suo tempo, o sia che provenga dalla poltrona di primo cittadino baciato in fronte dal consenso popolare, si tratta pur sempre della fortunata pratica sociale della contraddizione. Tuttavia, mentre la contraddizione del sindaco porta alle dimissioni, la contraddizione del filosofo materialista porta direttamente alla tomba. È un caso in cui la pena è direttamente proporzionale alla dignità del reato. Let me to the great mambolero in all of Cuba, the toast of the town. Singing at the Tropicana, my fantasy finally came true. Imagine